Yeah. Londa via e se Londa lo velo Londa Londa e Londa e Londa Londa Aya e e Aya e Yaroba walo la mikolo Mabe e e Mabe Nalo viso viso Moro ina Mabe, Mabe, I love you so.